Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Buonasera, buonasera a tutte e tutti e benvenuti all'ascolto di questa diretta specialissima della domenica di Radio Wombat. Come facciamo ormai da 3 mesi a questa parte, continuiamo con le nostre dirette quotidiane delle 19 che, come ormai saprete benissimo, sono, sia pure con taglio diverso, realizzate apposta per fare informazione, approfondimento, ma anche per intrattenere, e speriamo anche oggi di riuscire nella nostra missione. Piano piano, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, ma in realtà direi magari da sempre, abbiamo accresciuto e stiamo continuando a migliorare i nostri mezzi, e in tal senso un bel passo, un bel salto in avanti è stato fatto con l'inaugurazione delle dirette a più voci che, grazie ai nostri prodigiosi strumenti, riusciamo a fare nonostante la distanza fisica che continua a separarci. E infatti gli ascoltatori abituali della domenica si ricordano sicuramente come 2 settimane fa abbiamo fatto una puntata in cui eravamo in 2, io e Pink, dove abbiamo parlato fra le altre cose del disastro di Chernobyl e delle lotte contro il nucleare. Domenica scorsa invece da 2 eravamo diventati 3, con una puntata assurda, insieme ad Antonio Probo e il maestro Ottani, le cui voci comunque torneranno molto presto qui su queste frequenze. Ma beh, direi che oggi è il caso di fare non uno scalino ma tutta una rampa in più, e da 2 che eravamo 2 settimane fa a 3 che eravamo la settimana scorsa, arriviamo oggi a essere un visibilio di voci. Ma prima di presentarvele tutte, do il benvenuto, anzi il bentornato, a Pink, che è qui connessa. Pink, ci sei? Mi senti? Sì, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Wombat. In realtà sono di nuovo qua perché, cioè, dopo che ho fatto la fuga del gatto, rieccomi ancora un'altra volta. Penso che mi sognerete forse la notte, verrete gli incubi. Anche la mia voce, in effetti, è un po' una costante della domenica. Ero con un po' You Hit prima della tua fuga del gatto, ma insomma ormai l'abbiamo colonizzata io e te la domenica e ci va benissimo così. Vabbè, ma perché, cioè, noi siamo, rappresentiamo la cultura, sì, dentro, certo, questa radio. Sì, certo. Cioè, noi portiamo una ventata di cultura e di comunque savoir-faire. Cioè, sennò questi rozzi qua, Wombat, non, poverini. E con tutto il mio aplomb mi prenderei l'onore di annunciare gli ospiti di oggi, va bene? Permesso, concesso? Concesso. Direi che sì, va benissimo. Oui. Prego, oui. Prego, vada. E allora da nord a sud abbiamo oggi connesse con noi Radio Gramma da Genova, Radio Spore da Bologna, ci siamo noi di Radio Wombat da Firenze e Radio Forte da Roma. Sono tutte radio queste che gli ascoltatori di Radio Wombat conoscono benissimo, sia perché le abbiamo più volte menzionate nelle nostre dirette. Recentemente, ad esempio, abbiamo festeggiato la nascita di Radio Forte a Roma, sia perché ormai fanno anche abitualmente parte del nostro palinsesto trasmissioni e contenuti prodotti da queste radio che abbiamo oggi ospiti con noi e che sentiamo amiche, anche di più, sorelle. Ma prima di ascoltarne le voci qua in diretta, direi di ricordare intanto dove si possono direttamente ascoltare. Ricordo i loro siti in cui si possono ascoltare le radio in streaming, che sono radiogramma.buridda.com, radiospore.oziosi.org e radio.forteprenestino.net. Ricordo anche che ci state ascoltando sulle frequenze del 1359 AM oppure sul nostro sito wombat.noblogs.org. E infine, già che sono in vena di rimembranze, ricordo anche che la mail per contattarci è postawombat@insiberia.net oppure potete usare il bellissimo pad col quale interagire con noi in diretta. Il link è sulla home, sulla prima pagina della radio, cliccando su diretta Wombat, oppure all'indirizzo rafanu.vado.li. Fra pochissimo inizieremo a chiacchierare con tutti i nostri ospiti. E Pink, di cosa parleremo e perché li abbiamo invitati? Allora, l'idea era un po' quella di chiaramente stendere un ponte, vari ponti anzi, e qui vabbè, visto che abbiamo anche genovesi si potrebbero fare delle battute di veramente pessimo gusto, quindi mi fermo qui subito, però insomma con varie radio amiche, sorelle, che hanno in realtà, cioè, oltre al fatto di essere in altre città, insomma, graficamente lontane da Firenze, chi più che meno, però hanno anche storie diverse, configurazioni diverse, lo sentirete poi durante il corso di questa trasmissione, ognuna di esse ha una sua peculiarità, una sua storia, un suo percorso, chi è nato ora, chi esiste da un po' di più, chi ha cambiato di parecchio la propria attività negli ultimi mesi, insomma, ci sembrava un modo questo di poter far ascoltare agli ascoltatrici e ascoltatori di Radio Wombat altre voci che non fossero solo le nostre e altre radio che non fossero solo le nostre. A noi è sembrato che soprattutto durante questa pandemia, che ora non voglio parlare al passato perché purtroppo non se ne può parlare ancora al passato, però facciamo finta, buttiamoci nel trenino di questo finto entusiasmo alla Conte, che vabbè. Però ecco, ci è sembrato che durante questa epidemia effettivamente la radio fosse uno degli strumenti più importanti a cui siamo riusciti a dare risalto, e questo in realtà per chi ci conosce, per chi ci ascolta, l'abbiamo detto quasi da subito e ci è sembrato, cioè a noi che lo facevamo ci è sembrato una cosa molto importante, ma devo dire che abbiamo trovato conferma anche in chi ci ascoltava, che si sentiva anche solo tenuto per mano spesso nella solitudine della quarantena ascoltando la radio, ma questo solo diciamo per cominciare. Poi c'era la funzione ovviamente di informazione, di controinformazione, anche il tempo che avevamo spesso in più rispetto alla normalità di approfondire certi temi, e quindi la radio in questo tempo di pandemia è stato effettivamente è stato strano, abbiamo potuto approfondire un po' più del solito, forse correre un po' di meno, e insomma al di là della pandemia fare radio è uno strumento, insomma, la radio è uno strumento che ovviamente, che ve lo diciamo a fare, la stiamo facendo, quindi è chiaro che ce la rivendichiamo, ma insomma ci sembra uno strumento importantissimo, e forse appunto questa pandemia ne è stata un po' la riprova. E quindi ci faceva piacere farci raccontare dalle altre radio amiche nostre come l'avevano vissuta loro e come la stanno vivendo, ma al di là della situazione, della contingenza del momento, diciamo, che sicuramente è interessante appunto da raccontare e da ascoltare, ma anche come sono organizzate normalmente, ecco, come nascono le loro storie e tutte le peculiarità che poi fanno parte sia delle singole radio, ma anche del territorio, chiaramente, che raccontano. Quindi un po' questo, e ne avremo tantissime, penso, da dire e da ascoltare. Infatti davvero anch'io non vedo l'ora anche di questo confronto, insomma, magari abbiamo un po' aggiornato su come piano piano ci stavamo regolando e attrezzando noi, ma sicuramente sarà interessante anche per gli ascoltatori ascoltare queste diversità, ma insomma andare un po' a fondo di tutto questo. Io direi che facciamolo subito, e magari anche oggi, però dico soltanto che per la fortuna di chi ci ascolta non sentirete le solite schifezze musicali che metto sempre io, ma torna un'ottima selezione di brani fatta da Pink e della Fuga del Gatto, anzi più che altro direi in questo caso di Slick Chick, e se sei d'accordo io metterei subito una canzoncina di riscaldamento e poi torniamo a parlare di radio, in radio, con le radio, in questa vorticosa struttura ricorsiva. Sì, e come sempre noi purtroppo non ascoltiamo, non riusciamo a ascoltare con questa configurazione la musica che tu metterai, ma ce la immagineremo anche perché ora stai per mettere i Ramones, secondo me, e quindi sballetteremo così, a caso, in silenzio. Io invece ho le cuffie ben piantate, ma comunque sballetterò con voi. Via! This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Radio Wombat. Ed eccoci di nuovo in diretta. Mi metto a sedere, tiro un respirone, che ho ballato per davvero, che bello. E Pink, sei sempre connessa? Ci senti? Funziona ancora tutto? Eh sì, ci sono. E allora è il momento di dare parola ai nostri ospiti internazionali. Fra l'altro non li abbiamo ancora presentati, sono tantissime. Io direi di andare un po' con ordine per evitare i mucchioni e poi gli assembramenti che poi ci vengono a controllare coi droni. E quindi partirei intanto da Bologna, cioè qui già eravamo incerti se fare un ordine di tipo geografico oppure, non lo so, salta beccare di qua e di là, non lo so. Numero di io direi abitanti, che intanto tamponi, non lo so. E io direi che magari iniziamo da Bologna, iniziamo da Radio Sare, dove abbiamo con noi Lico e Settina che ci terranno un po' compagnia. Ciao. Ciao. Ciao. Eccoli qua e grazie che siete qui con noi ovviamente a raccontarci un po' di Radiospore. E intanto vabbè, le domande che abbiamo per tutti sono varie, ma la prima è una considerazione direi di tipo quasi fantascientifico, ovvero cioè la radio si è dimostrata, non so se siete d'accordo con me, ma proprio il mezzo apocalittico per eccellenza, cioè è una roba, cioè che io vabbè sono una grande fan dei film di fantascienza e della fantascienza in generale, dei libri e tutto, e c'è sempre una radio, cioè a un certo punto su un momento post apocalittico sicuro che c'è una radio che magari è l'ultimo baluardo con cui l'umanità è rimasta, riesce a comunicare, trovare altri dispersi, cioè tutte queste robe qua, c'è sempre di mezzo una radio. E ora so voi quante apocalissi avete vissuto, ma questa secondo me ci assomigliava parecchio e mi è sembrato effettivamente che ce l'avesse un po' confermata sta cosa, che la radio era effettivamente il mezzo per eccellenza, cioè tipo la televisione si era già capito da mo che non serve a niente, invece la radio si è rivelata molto più apocalittica. E quindi che ve ne è parso, cioè in qualche maniera, al di là ora degli scenari così fantascientifici, ma vi è sembrato che qualcuno ascoltasse sta radio durante questa apocalisse e quindi che avesse davvero questa funzione un po' di aggregazione di tutte quelle funzioni che ci può avere una radio in un momento di crisi? Oppure chissà, invece magari era tutto un mio trip. No, confermiamo anche da qua l'approccio apocalittico alla radio, che è un mezzo facilmente accessibile rispetto a mettere su una televisione o qualcosa. E uno degli aneddoti più belli apocalittici che abbiamo vissuto nell'ultimo mese è stato un collegamento vero e proprio con Frittole durante una diretta di Wombat, e mentre andavamo noi in diretta il 1° maggio, che sono stati tipo 10 minuti di comunicazioni come se fossimo su pianeti diversi, con dei silenzi infiniti, dei sottofondi lunari, spettacolare. E anche il 25 aprile, che abbiamo fatto una diretta e ci arrivavano dei contributi, ci hanno mandato dei contributi persone che erano andati a Cippi Partigiani, a raggiungere posti partigiani anche in Appennino, e poi ci registravano degli audio, li mandavano, e diverse persone ci hanno detto: ah, mi sentivo come se fosse in guerra, in un bunker, e sento queste notifiche che arrivano un po' come se fosse Radio Londra anche. Beh sì, in effetti sì, Radio Londra direi, o qui anche Radio Cora c'era, cioè Radio Partigiana, e tra l'altro ci avvicinia. Noi tra l'altro Pink all'inizio... Bravo, dillo te. All'inizio avevamo incertezza sul nostro nome, dovevamo decidere se chiamarci Radio Wombat oppure Radio Lontra, per rimanere in tema animalesco e richiamare, vero? Abbiamo scelto con Wombat, sì. Poi ma eravamo stati a lungo incerti. Io ero una grandissima fan ovviamente di Radio Londra, però purtroppo me l'hanno cassata, però vabbè, comunque me la rivendico, il Wombat è comunque un animale bellissimo, va bene così. Fa delle cacche stupende. Ma infatti, cioè, È voglio stato dire, bello Londra. a La... convincerci, sì. Ma sì, la Londra è carina, però insomma, cioè, ecco, anche lì il Wombat, quando ci sono stati tutti gli incendi in Australia, questo inverno che poi dopo c'è stato il Covid e nessuno se lo ricorda più, però insomma è stata una bella emergenza e il Wombat ha accolto gli altri animali in fuga nella propria tana, cioè a proposito di apocalissi, ecco, il Wombat si è dimostrato l'animale da avere vicino nel momento del bisogno. Ma Vai di soli. invece, no, scusami, dimmi. No, era solo un vai di solidarietà tra la fauna, che la solidarietà e la comunicazione sono stati entrambi aspetti importantissimi degli ultimi mesi, secondo me. E appunto di comunicazione apocalittica è quello di cui stiamo parlando. Ma infatti anche perché ora poi ce lo spiegherete per bene anche insomma, nella vostra storia e quello che sono state un po' le evoluzioni di Radiospore degli ultimi giorni e delle ultime settimane. Però prima accennavate appunto a questi vari contributi che vi sono arrivati, specialmente il 1º maggio e il 25 aprile, ma avete avuto anche l'impressione di un come dire, un aumento degli ascoltatori, ora non per fare lo share, ovviamente, però cioè che effettivamente fosse percepito anche dagli altri come uno strumento utile, che quindi fosse più ricercato, anche più ascoltato. Beh, sicuramente sì, direi, contando che l'altro gran ascolto che abbiamo avuto era stato la scorsa estate durante lo sgombero di XM. In questo periodo di pandemia c'è stata una gran vicinanza alla radio e soprattutto, cioè, fin dall'inizio, fin dalle prime settimane, ci sono arrivate proposte di organizzare programmi, infatti poi vi racconteremo un po' il palinsesto, come è evoluto, comunque. In generale è stato uno strumento importantissimo per far sentire la voce di persone con cui sei abituata a vederti ogni giorno e che invece di questi tempi non ci si vede, e quindi è un segno di vicinanza anche solo riuscire a sentire la voce di persone che stanno distanti pur abitando nella stessa città. E quindi sì, c'è stata una crescita di ascolti, una crescita nella voce. Proprio dovuta a questa voglia forte di comunicare in un periodo apocalittico. Sì, e di fare comunità anche perché chiaramente tutti nel nostro, come dire, nel nostro singolo, chi comunicava con qualsiasi mezzo a disposizione dalle videochiamate in su, però è il senso comunitario e non della tua chat su Telegram con i tuoi amici o i tuoi affini, effettivamente la radio da quel punto di vista è stata abbastanza preziosa perché non era solo comunicare con la tua cerchia di conoscenti, ma anche con le persone con cui fai anche, ti trovi a far politica anche o socialità. E sì, cioè, più che il share, che sicuramente vabbè, nel nostro piccolo chiaramente ti gasa a dire ah cazzo, ma ci hanno ascoltato 300 persone oggi, wow, eh? E questo sicuramente, però più che quello, a me personalmente, la cosa che mi ha lasciato più, non so, più ah cazzo, è servito a qualcosa stare 12 ore al computer il 25 aprile. È stata la gente che ti scriveva poi nel pad, grazie raga, sarebbe stato un 25 aprile abbastanza di merda, così invece ci avete fatto sentire come se fossimo in piazza. Io ho un'altra domanda che vorrei farvi, che comunque questo sentimento che portate io penso sia comune, o almeno io, noi lo sentiamo sicuramente, ci siamo anche confrontati, è stato tante volte per noi lo stesso, è stato un aspetto importante molto più e molto prima del consenso numerico ricevuto in effetti in questi giorni e in queste occasioni. Accennavate apposta appunto prima questioni come lo sgombero di XM, ma infatti per fare un po' di storico io vorrei domandarvi. Come siete nati? Se vi va di fare una breve storia della vostra radio. E sempre Radio Spore proponevo Vai tu questa lì, domanda. cosa vado io? Vai, vai, Tina. Fai Giocatevela. la storica. Carta, sasso, forbice. E se vi va anche il nome, già che ci sono, vi domando, visto che scherzavamo prima su Wombat, Lontra, eccetera. sulla scelta del nome appunto Radio Spot. Iniziamo dalla cosa più facile. Iniziamo dalla cosa più facile che è il nome, ovvero che siccome non c'era consenso sul nome, c'erano proposte varie da Radio Degradio a radio più nome bolognese, parole a bolognese varia. Radio Disagio. Esatto, Radio Sgumbei, Radio mille proposte, non si quagliava su niente. Quindi alla fine abbiamo optato per la, come spesso succede in questi casi, per l'opzione più mediocre, ovvero quella che non piaceva a nessuno, ma non dispiaceva neanche a nessuno. E il consenso è così, che era Radio Spore, fra l'altro calzante perché comunque la radio è nata nei sotterranei di XM. Sì, infatti io mi sono perso un po' al periodo di decisione del nome perché col decidere i nomi non ci azzecco mai, ma a parte questo, le spore dei sotterranei di XM sono l'ambiente dove siamo nati nel 2017, nell'autunno, e lì abbiamo fatto la nostra prima regia e le assemblee per organizzarci e iniziare a trasmettere. Sì, un po', a XM c'era un po', cioè c'era già un gruppo che si era occupato negli anni, cioè c'era molta attenzione alla questione media, c'era un gruppo che si era occupato di fare una TV di quartiere all'inizio, oddio, non so se esattamente all'inizio, però insomma nei primi tempi di XM, c'era questo collettivo. E quindi c'era anche molta attenzione alla parte media e di comunicazione, poi diversi erano anche, facevano parte di indie media pure, quindi XM c'è sempre stata un po' questa attenzione. E c'era un po' l'idea di fare una radio, sì, no, na, poi anche persone della club, erano in rete con alcuni di voi, anche dei bombati. E si era pensato di fare una radio e poi è arrivato un gruppo di nuova linfa, diciamo, che era entrato a XM attraverso un festival di musica elettronica e quindi poi si sono quagliate diverse, insomma, diverse anime che volevano fare una radio. E quindi scusa, curiosità al volo così, visto quello che dicevi, ma quindi inizialmente almeno una parte consistente era arrivata in qualche modo dalla musica, cioè dai circuiti musicali, o sbaglio? Beh sì, diciamo che in quegli anni è iniziato Bologna Elettrica, che era questo festival che si teneva a XM24, e quindi tra gente presa bene dalla comunicazione, tra gente presa bene con la musica, si sono messe assieme e si sono ritrovate dicendo: oh, ma facciamo su una radio. E gente presa bene per il do it yourself, Luckin e quant'altro. Quindi sì, uni e trini. Vabbè, bene. Sono molto E non lo so soddisfatto se da sei d'accordo, questa Mario. risposta. Vero, vero, sì, sono stati bravi. No, io visto che appunto continuerei a varcare questi confini extraregionali senza comprovate necessità lavorative, ma per il puro piacere di farlo, e spingerei fino a Roma. Questa volta direi che il nome Radio Forte sì, è un po' più autoesplicativo, effettivamente, cioè ce lo faremo a spiegare, ma insomma forse è abbastanza facile da intuire. Si tratta comunque di una radio che fa capo al Forte Prenestino di Roma, quindi il nome in questo ci aiuta molto, ecco, insomma non è difficile. E quindi voglio chiedere anche a voi, dopo ovviamente avervi ringraziato di essere qui con noi, abbiamo due in particolare. No, non è vero, ne abbiamo tantissimi. Ci sono. Mamma mia, no, cioè sono tipo, quanti siete? 8, 3, 2000. Vabbè, iniziamo intanto da Daniele e Riccardo. Dal Ecco appunto, cos'è che avete detto? che sono millanta, hanno detto. Infatti, facevano la folla. E quindi dopo passiamo magari anche ai mille mila, però insomma, intanto saluto Daniele e Riccardo e vi ringrazio di essere con noi. Allora, grazie a voi. Sì, beh, diciamo che il nome Radio Forte viene un po' da sé, nel senso che Radio Forte è la radio del Forte Prenestino e quindi non potevamo che chiamarci Radio Forte. E questo, insomma, come dicevi giustamente tu, era piuttosto ovvio se non banale. Io l'ho interpretata un po' anche come un daje forte con un radio davanti, Radio Forte. Radio Forte. Ma diciamo che per noi quel forte lì, dove lo metti, significa anche daje forte, sì, assolutamente, ma vale per tutto, sempre. Sì, è indubbiamente polivalente, anche se possiamo fare anche noi uno storico del nome, perché la radio, insomma, è nata un po' per gioco. E all'inizio era un'idea di una nostra amica che, così scherzando, ha detto: ma perché non facciamo una radio in questo periodo? E il primo nome che provammo, così, mentre ancora non avevamo fatto niente, era Radionella, perché la nostra amica si chiama Antonella, quindi l'avevamo dedicata a lei. E poi abbiamo visto che la cosa funzionava un po' bene, abbiamo deciso di essere una radio che rappresenta anche il Forte Prenestino e siamo usciti con questo nome. Sì, tra l'altro, ma non l'abbiamo detto, ma insomma si intuiva già dalle vostre parole che effettivamente rispetto a Radio Spore, che appunto ci raccontava di essere nata nel 2017, e voi siete stati ora, cioè proprio è una cosa recentissima, in piena pandemia, e a questo punto mi viene da chiedervi, ma la coincidenza è così? Cioè, nel senso, era un qualcosa che avevate in testa già da prima in realtà, magari in alcune di voi, oppure è stata la pandemia forse in fondo a darvi un po' il là? Ma allora, al Forte si è sempre parlato di mettere su una radio, poi per una serie di motivi non si è mai fatto. E sicuramente la pandemia ha dato un'accelerata, quindi probabilmente ci possiamo fregiare della definizione di radio apocalittica proprio al 300%. E c'era un po', insomma, le attività del Forte si sono chiaramente fermate sotto pandemia, quindi tutte quelle energie che animavano e che animano i laboratori del Forte Prenestino si sono ritrovate, insomma, senza la possibilità di esprimersi, e la radio è diventata, insomma, la valvola di sfogo di queste persone, di queste energie. L'abbiamo messa su inizialmente così, un po' per vedere come veniva, poi ci siamo accorti che stava arrivando il 25 aprile, da lì a poco sarebbe arrivato il 1 maggio, e quindi ci siamo lanciati nella prima trasmissione il 25 aprile e poi successivamente il 1 maggio. E torneremo, faremo una nuova trasmissione il prossimo weekend, a quanto pare, così ci siamo detti, e sicuramente ce la faremo, quindi siamo proprio neonati. Viva! Sì, in realtà è la cosa che trovo molto, molto in linea con il discorso che stavamo facendo sul fatto che come media sia quello apocalittico per eccellenza, in parte è vero, perché noi abbiamo iniziato, è vero, così un po' per gioco, poi abbiamo visto che la cosa funzionava, ma quando ci sono state le prime proposte di creare una radio sono uscite proprio per una sorta di necessità, cioè nel senso non potendosi incontrare, non potendoci vedere, però avevamo voglia di sentirci, di continuare a fare qualcosa insieme, di portare avanti un progetto, qualcosa che comunque arrivasse alle persone, anche magari solo per tenere compagnia. Quindi è stata un po' una cosa che è venuta naturale, cioè pensare proprio alla radio, cioè non ci è venuto in mente nessun altro mezzo se non quello, perché sembrava proprio quello che calzava in modo migliore alla situazione, è vero. E voi che siete mille laggiù invece, voi altri che siete millanta, avete qualcosa da aggiungere anche voi? No, ci siamo un po' inibiti perché siamo troppi e troppe, però ci sta qualche... Bella per tutti e a tutte, io sono Franzo. E niente, vorrei aggiungere solamente, rispetto a quello che hanno detto Riccardo e Daniele, in realtà Radio Forte nasce molto molto tempo fa, perché noi abbiamo trovato una vecchissima radiotrasmittente di militari che costruirono e occuparono questo forte, poi arrivammo noi, quindi abbiamo solamente sfruttato l'infrastruttura preesistente e abbiamo aggiunto qualche piccolo contenuto un po' a cazzeggio in realtà. Poi c'è anche qualche rubrica seria, però noi tendenzialmente qui a Roma facciamo le cose un po' così, un po' come ci vengono e non sempre sono ben codificabili. Va bene, allora, intanto voi mille bussate, che noi vi diamo parola anche a voi. E bene, secondo me, Mario, potremmo iniziare, cioè continuare con un altro pezzettino musicale, che dici, per staccare un pochino? Ben volentieri, ce l'ho pronto e poi ritorniamo subito però, siamo ansiosi di sapere tanto altro. Eh sì, era solo l'inizio. Allora, devo dire che in realtà non mi dispiace che non mi stiate sentendo perché ho fatto un mezzo disastro con la musica, ma l'ho rimediato prontamente. Solo i nostri ascoltatori però se ne possono accorgere. Dai, era anche un pezzone. No, dopo il pezzo, dopo il pezzo. Il pezzone era un pezzone, in effetti è andato tutto liscio, liscio, liscio. On my radio era. Eh sì, oh, i selector ci stavano. E allora che facciamo? Finiamo il nostro giro d'Italia? Non ci vanno le biciclette, ci andiamo noi a zonzo per l'Italia? Sì, perché per ora siamo andati in su e in giù e ora ritorniamo un po' più su e andiamo in particolare a Genova perché abbiamo con noi Filo di Radiogramma che in realtà è una radio sorellina da tanti anni con cui abbiamo fatto tante belle cosette e siamo felici di avere in diretta qui con noi. Ciao, ci senti Filo? Ciao a tutti e a tutte, è un piacere ascoltarci. Sì, ci sono e non lo so, introduco un po', riprendo le domande di prima, ditemi voi. Sì. Cioè, più che altro, visto che siamo quasi, non lo so, alle presentazioni ancora, cioè tanta strada ancora da fare, però appunto raccontaci un po' com'è nata Radiogramma e passan appunto se in questa pandemia, anche poi approfondiremo meglio i dettagli, però se questa pandemia effettivamente anche voi avete avuto l'impressione di essere un po' una radio, cioè uno strumento importante più di altri momenti forse. Allora, Radiogramma nasce dentro il laboratorio sociale occupato autogestito Guridda e diciamo io sono sempre scarsissimo nel ricordarmi quando iniziano le cose, per cui credo un paio di anni fa, che più o meno è abbastanza contemporanea di Radio Wombat. E, insomma, ci siamo appassionati del discorso che è venuto fuori da Meeting e abbiamo iniziato a tirare su tutta la parte, diciamo, di trasmettitore per poi trasmettere in AM. E nel frattempo, in realtà, dentro il laboratorio, dentro il laboratorio sociale, dentro la Borida, abbiamo trovato tutti molto, molto propositivi e quindi hanno iniziato a venire fuori nello stesso momento anche le varie trasmissioni. Quando poi abbiamo iniziato a trasmettere, insomma, c'era già qualcosa, già qualche anno fa. Il nome si chiama Radiogramma perché gramma in genovese vuol dire una roba da poco, una roba un po' così, Ale è un po' gramma, oppure come tipo l'erba gramma. E a noi ci piace molto l'autoironia, quindi insomma diciamo che l'aspettativa è grossa, però poi facciamo i conti con reale, con la realtà, e quindi insomma ci siamo sentiti di chiamarci Radiogramma. E insomma questo è un po' il motivo per cui ci chiamiamo così. Dal punto di vista di quanto siamo stati apocalittici, cioè in questa fase mezzo apocalittico, allora la radio assolutamente, essendo che è a bassa, sostanzialmente una bassa trasmissione di dati per avere le informazioni che ti servono, cioè non c'è il video che è superfluo sostanzialmente per creare ambientazioni, immaginario, raccontare cose eccetera, noi sì siamo stati assolutamente un mezzo apocalittico e ci è piaciuto molto e siamo stati diciamo accolti da tutta la città in una maniera molto molto positiva come un mezzo per rimanere insieme in un momento in cui si era assolutamente per forza separati, quindi insomma diciamo che abbiamo fatto il nostro da questo punto di vista. Oh, te lo dico Mario che qua sul pad nostro della diretta fioccano così i commenti e ci dicono che combo esplosiva Pink e Mario, cioè, te lo dico qua, ci tocca fare altre trasmissioni perché i nostri fan ci reclamano. No, e Filo, ma secondo te poi effettivamente le persone che vi ascoltavano, cioè come dire... Anche qui non voglio quantificare come se fosse davvero il conto dello share, però vi è sembrato che effettivamente ci fosse un ascolto diverso rispetto a prima? Sì, assolutamente, sono andati su, nel senso che noi, allora, sia dal punto di vista di ascolti, quindi gli ascoltatori erano ovviamente più attenti ed era un modo direttamente per stare in compagnia insieme, ma è stato anche molto importante per il Burida stesso, perché sostanzialmente ci dava un obiettivo su cui lavorare insieme, cioè non avevamo più diciamo la gestione dello spazio, delle serate o comunque di tutto quello che era la quotidianità all'interno dello spazio e quindi l'avere un qualcosa di etereo come la radio a cui stare dietro e da far funzionare, ha tenuto anche molto incollato insieme il collettivo. Quindi sia da questo punto di vista, ma anche gli ascolti sono andati nettamente su, perché gente che si vedeva in altre situazioni non si poteva più vedere, e il modo per stare insieme, per vivere dei momenti insieme, era quello di seguire la radio. Eh sì, questa è stata un po' anche la nostra impressione, credo. Non so, Mario, se tu sei d'accordo. Sì, assolutamente sì, davvero sì. E scusate, anzi, che mi ero un attimo distratto perché intanto da Radio Forte ci stanno annunciando una prossima performance. Siamo pronti, eh? Quando sarà il momento, siamo pronti. Intanto io quasi quasi farei una domanda un pochino più tecnica, se siete d'accordo. E vi vorrei domandare, senza scoprirvi oltre quanto deve essere fatto, insomma, come avete allestito la situazione? Come funzionano, cioè, le vostre regie, il vostro sistema di trasmissione in tempi normali e anche in questo periodo speciale, come l'avete cambiato, come vi siete adeguati alla separazione, anche alla distanza fisica da certi posti? Iniziamo, Sì, visto che eravamo a Genova, rimaniamo a Genova, che dici? volentieri, Ecco, sempre con noi se Fili. sempre con noi. Certo, sono sempre qua e vi Grande. ascolto. Vi Grande. ascolto e intervengo anche. Allora, no, niente, ci siamo riadattati abbastanza bene, nel senso che innanzitutto abbiamo fatto le trasmissioni, diciamo, in differita, cioè prima di tutto abbiamo iniziato a fare delle trasmissioni che fossero registrate e poi a mandarle in onda poco dopo. E devo dire che già nell'arco di 1 o 2 giorni, già un paio di trasmissioni erano già pronte, on the go. Soprattutto a pranzo con Ciabi, era prima cena con Ciabi, che è la nostra, diciamo, rubrica di cucina, che segue prima alle 6, ora più durante la pandemia la mattina, però insomma si è messa subito all'opera. Poi nel mentre chi lavorava più dal punto di vista tecnico ha un po' rispulciato il software che ci permette di mandare in onda, di fare tutto lo scheduling dei programmi, eccetera, eccetera, e abbiamo trovato la modalità di fare sostanzialmente il relay dello stream, e quindi uno dal suo computer. Abbiamo passato dei vari delle guidine dove sostanzialmente spiegavamo come attaccare Mix, che è un programma open o free, ora non so, scusate nello specifico, ma sostanzialmente accessibile a tutti e a tutte, ed era un programma semplice da usare, da passare, diciamo, ai vari DJ, ai vari conduttori dei programmi, a chi seguiva, insomma, i vari programmi di radiogramma. E man mano poi ci siamo messi al via, in modo che i vari programmi venivano fatti da casa, e sia quello, ma poi in supporto, e credo poi sia stato un po' lo stesso per tutte le radio, ci si è organizzati anche, come stiamo facendo adesso, per avere dei sistemi per essere nella stessa trasmissione, ma non essendo insieme fisicamente. Quindi anche i vari mumble e i vari jitsi, diciamo, collegati nel computer di quello che stava, diciamo, streamando sul server. Insomma, grosso modo, queste erano le modalità. Sì, tra l'altro a questo punto interverrei anche cambiandomi il cappellino e da intervistatrice mi auto-intervisto, Sì. perché anche noi in Sì. effetti con Wombat abbiamo avuto così sensazioni e esperienze piuttosto simili, e in particolare, così, no, non lo so, mi sembra anche bello e interessante e piacevole da ascoltare il racconto proprio visto da noi di come poi è stata costruita questa radio, e anche magari per chi ci ascolta potrebbe essere curioso, ecco, scoprirlo. Cioè, questa, se diciamo in condizioni normali tirare su una radio è qualcosa che tendenzialmente si riesce a fare ormai abbastanza facilmente, cioè, poi chiaramente dipende di che tipo di radio parliamo, però nel caso di Radio Wombat si tratta di una radio in streaming e in onde medie, la parte onde medie chiaramente è molto trigosa, penso che Filo concorderebbe con me, però ecco la parte invece streaming, della regia streaming, chiaramente è abbastanza anche low cost, fra l'altro, e si può fare anche con mezzi quasi del tutto recuperati o comunque a basso costo. Ecco, a un certo punto con la pandemia ci siamo ritrovati anche noi a dover riacchittare tutto, a dover fare radio con l'urgenza di farlo per i motivi che abbiamo detto prima, cioè perché ci sembrava ancora più importante del solito, e farlo però a distanza, senza potersi vedere, senza poter stare l'uno davanti all'altro, davanti ai microfoni, e soprattutto senza avere tutti quegli strumenti, microfoni, cuffie, computer e quant'altro a cui eravamo abituati. Cioè, in realtà Radio Wombat non è che ora siamo Radio Capital, cioè chiaramente le nostre regie, le Wombat, le tane del Wombat sono già di norma abbastanza spartane, insomma non è che abbiamo chissà che strumentazioni, però ecco, un giorno all'altro siamo trovati ognuno a dover riattare le proprie regie nelle case e questo devo dire però è stato molto interessante perché, almeno dal mio punto di vista, perché ci ha un po' costretto a uno scambio di conoscenze tecniche anche, che altrimenti forse è un po' per pigrizia, un po' perché lo davamo per assodato, avevamo un po' delegato a chi lo sa fare, e quindi prima c'erano molto di più gli specialisti tecnici che si occupavano di come dire, lasciare la regia in condizioni di essere usata e installarla, configurarla e quant'altro, e invece adesso in questo momento di pandemia, grazie fra l'altro a uno sforzo che abbiamo fatto noi, anche condiviso con le altre radio, infatti non, veramente non smetterò mai di ringraziare. Abbiamo fatto un sacco di guide di how-to che spiegavano come fare configurarsi la regia a casa, come usare quello strumento o un altro e come ricavare alla fine un suono accettabile, dei volumi accettabili con tutte le lotte del caso, per fare una regia in casa accettabile, ecco. E questa cosa è stata, penso, un'esperienza per noi Wombati enorme, veramente ricca e che ci porteremo dietro sicuramente. Non so, Mario, ora aggiungi e correggimi. No, confermo e basta, perché è stato proprio così e per chi magari a differenza di tante altre voci che ci sono qui, tipo me, era invece parecchio imbranato con l'aspetto tecnico, è stata un'occasione anche di imparare tutta una serie di cose, di dotarmi io stesso di una serie di strumenti e è stata anche autoformazione, quindi l'occasione in questo senso c'è stata e come. E anche oltre che le altre radio mi sembra importantissimo anche ringraziare i vari hack lab che hanno contribuito diffondendo sia mezzi sia conoscenze. È stato un lavoro comune a tutti gli effetti che ha portato agli esiti, tipo la trasmissione a più voci che state sentendo anche adesso, ecco. Eh sì, allora, bolognesi, voi che dite invece, Radio Spore, da questo punto di vista, come eravate organizzati prima? Quindi come erano le vostre regie, la vostra regia, in termini proprio di organizzazione tecnica, ora senza, cioè perché poi noi siamo tutti, come dire, nerd super interessati a questa cosa perché la facciamo la radio, però magari chi ci ascolta ora non li tedieremo per con ore di dettagli su quel mixer o quell'altro, però ci incuriosisce anche sapere come sono le vostre tane non del Wombat, ma di Radio Spore e come poi queste cose invece si sono dovute in qualche maniera riconfigurare all'indomani della pandemia. Le tane della muffa. Allora, noi nei sotterranei di XM, quando avevamo XM, avevamo una regia, diciamo, vera e dopo lo sgombero in realtà la radio è rimasta un po' latente e abbiamo usato più che altro sia durante la giornata dello sgombero di XM sia anche durante lo sgombero di un'esperienza che è nata dopo, che è stata l'occupazione dell'ex caserma Sani. E lì abbiamo usato più che altro gli strumenti per mandare le dirette, ovvero Boot, se non sbaglio, l'ICOS, e Sì, sia Boot che Coolmic per i telefoni e lo sgombero è stata proprio una regia, diciamo, sul campo, dai cellulari che stavano lì. E invece dopo, appunto, a livello di programmi, c'erano alcuni programmi che funzionavano più come podcast, per cui mandandoli come web radio, però senza particolare. Oddio, sì, si continuava a usare la diretta grazie a Coolmic e Boot. Invece, appunto, la parte, diciamo, di coordinamento come stiamo facendo adesso. È nata proprio durante la pandemia che ci siamo un po' ripresi. Radio Spore è la radio che ha bisogno di una pandemia. Questa è una citazione dell'astronometeo, effettivamente tornando a quello che diceva Pink prima, è stato un momento questo di rallentamento e in questo rallentamento siamo riusciti un po' a rielaborare tutto il palinsesto, per cui intanto prima avevo letto 2017, in realtà Radio Spore è nata nel 2018 e ha coinciso appunto con tutta la campagna contro lo sgombero e le vicissitudini dello sgombero, eccetera. E quindi è stato un momento un po' un momento di nascita travagliato, e negli ultimi mesi invece c'è stata una gran riscoperta della radio come mezzo, come dicevamo prima. Ma secondo me è importante anche dire che oltre alla facilità di ascoltarla e di comunicare tramite la radio, molte persone, molte compagne e compagni si sono resi conto che è relativamente facile riuscire a fare un programma sulle radio anche in tempi del genere. Quindi abbiamo fatto della gran assistenza su Mumble e abbiamo dato la possibilità a tante persone di installarsi i programmi, che fosse Mumble, che fosse Boot, per riuscire ad acchittare delle regie che a questo momento sono totalmente in giro per Bologna senza che vi sia una sede. Sì, infatti, come diceva anche prima Mario, per tanti di noi è stato un momento di autoapprendimento, di dire ok, c'è vita fuori dalle dirette Facebook, dai gruppi Telegram, si possono fare le cose, non è così complicato poi come sembra all'inizio, basta averci la voglia di mettersi in gioco. E quindi quello è stato anche molto bello, la parte, diciamo, di, se vogliamo chiamarla, pedagogia hacker. E sì, appunto, abbiamo usato diversi strumenti che non stiamo a dire perché comunque l'abbiamo già detti, l'avete detti anche voi, e un po' mi sembra che siano quelli che stiamo usando, queste radio che siamo oggi qua. Bene, e invece Radio Forte, che chiaramente non ha magari tanti paragoni col prima, però come vi siete organizzati voi da un punto di vista proprio di struttura tecnica, di strumenti che usate, e anche proprio da un punto di vista magari di strumenti, cioè dove avete, se avete raccattato cose che avevate già, ora chiaramente al Forte. Insomma, non è, mi immagino che non mancassero gli strumenti, la strumentazione tech. Insomma, come avete acchittato tutto? In realtà noi abbiamo fatto convogliare, abbiamo unito tutte le nostre esperienze e virtù e ci siamo adattati a quello che abbiamo trovato in giro per i sotterranei del Forte. Quindi il nostro tecnico Null Pointer, diciamo, è riuscito ad assemblare con un sapientino, un dolce forno Arbert e una bicicletta tutto quello che ci serviva per trasmettere. In più, nottetempo, comunque sia, guanti e mascherina munito, si è fatto tutta Roma Est, e stendendo chilometri e chilometri di cavo Cat5, mi sembra che si chiami così, non facendosi beccare, non munito di autocertificazione, girando così un po' con il cappelletto che gli occultava il viso, e siamo andati avanti così. Poi ognuno con il suo computerino, con una vecchia radiolina della nonna, con il cellulare antidiluviano, anche altri con strumentazioni un po' più adeguate ai nostri tempi, però ci siamo fondamentalmente adattati. Confermi Sì, Null sì. Pointer. Sì, cioè, non tutto, non confermo tutto, soprattutto le cose illegali, perché si sa che io non faccio cose illegali, quindi non erano vere tutte quelle cose, qualcuna sì. Però diciamo, Radio Forte si differenzia dalle altre radio che abbiamo ascoltato, perché in realtà noi per ora non trasmettiamo in radiofrequenza e fino ad ora non abbiamo fatto alcuna diretta, cioè tutto. Le rubriche proposte e gli interventi proposti sono stati registrati prima e poi mandati in streaming, quindi diciamo il lavoro era un po' più semplice. Non abbiamo una vera e propria regia, ma ciascuno e ciascuno da casa sua ha registrato con strumenti a volte di fortuna, il telefono, il computer, microfoni insomma poco professionali come quello da cui stiamo parlando ora. Siamo riusciti a montare delle rubriche. Poi, vabbè, qualcuno aveva degli strumenti più professionali, li ha usati, qualcuno aveva già esperienza, altri no, se la stanno facendo ora. E anche a livello di software, diciamo, abbiamo provato a usare le cose più semplici a disposizione di tutti, in modo che possa anche il palinsesto possa essere gestito facilmente da tutte e tutti. Non dobbiamo scrivere codice, mettere codice dentro degli script o controllare a mano MPD, ma diciamo abbiamo un software un po' rognoso da installare, ma molto facile da usare, che si chiama LibreTime, che un tempo era AirTime, e quindi è più, cioè diciamo, abbiamo puntato alla possibilità di che venga gestito tutto anche da persone non tecniche informatiche, ecco. Questo perché diciamo a me non andava tanto di dover seguire tutto passo dopo passo personalmente. E invece dal punto di vista dell'audio, sì, diciamo situazione un po' assortita. Vuoi Bene. aggiungere qualcosa? No, mi sembra che più o meno ho esaurito i concetti in maniera chiara, no? Assolutamente sì. E infatti io direi anche di dare il tempo ai nostri ascoltatori di riordinarsi gli appunti che, come me, staranno prendendo. Mettiamo una canzoncina breve breve, 2 minuti e ritorniamo subito. Va bene? Canzoncina, sì. Registration right at the top. Ed eccoci subito di nuovo in diretta. Siamo tornati a parlare con le nostre radio amiche. Parlavamo poco fa di strumenti tecnici, allestimento di regie prima e dopo il periodo pandemico e comunque sull'implementazione di tutto questo, magari ci torneremo anche fra pochissimo. Intanto io vorrei magari domandarvi, a proposito sempre di differenze fra il prima e il dopo, la questione del palinsesto. Qualcosa era già stato poco fa anche accennato, ad esempio dal radiogramma, le differenze fra il palinsesto normale e il palinsesto speciale, se sono cambiati temi, contenuti, come, e anche se, come per esempio è accaduto a noi qua a Firenze, diversi eventi fisici che sono stati annullati, che non hanno avuto modo di svolgersi fisicamente, hanno trovato modo di esprimersi invece altrimenti in radio. Ad esempio per noi è stato il Festival della Letteratura Sociale, che non si è svolto nella 4 giorni consueta, ma ha trovato vita con un programma di letteratura che va in onda una volta a settimana, oppure anche assemblee, confronti, iniziative di approfondimento. Se tutto questo, insomma, è stato e come è spostato sulle radio, e se quindi hanno anche assolto una funzione in questo senso, in questo periodo. Io non so a chi vogliamo passare parola, forse per farla in modo assolutamente casuale. Bologna? Ma sì. Allora, dai. Eccoci qua. Tina, vai tu, vado io. Andiamo entrambi. Prima tu, dopo dico io di Olè. Vai. Allora, come diciamo prima, il palinsesto pre-pandemia era tante trasmissioni musicali, su cui abbiamo ricevuto grandissimi complimenti per la selezione della musica, e un po' di trasmissioni che andavano live, tipo Svariely, che aveva cominciato a fare delle dirette la domenica sera, e nel momento in cui sono scattati i blocchi a casa e via dicendo, sono iniziate una serie di trasmissioni che si spera si riuscirà a portare avanti anche al di là di questi tempi. In particolare la prima settimana abbiamo iniziato a sperimentare di fare un giornale radio, che poi sta andando avanti ancora adesso e viene ritrasmesso da Radio Wombat e Radiogramma. E col giornale radio abbiamo avuto tutta una serie di discussioni, cioè l'avere a che fare con l'informazione, come dare l'informazione, le difficoltà del caso, su cui si continua a ragionare. E poi sono nate diverse nuove trasmissioni, tipo, per citarne alcune, Record, che è una trasmissione sportiva, La Cartomanza, che è una lettura di carte, e Tinala, di cui può parlare Tina. No, non mi farò autopubblicità. Ok, e invece, cioè, al di là di nuove trasmissioni che hanno riempito il palinsesto, anche qua abbiamo provato a riproporre dei momenti collettivi che prima si riuscivano a fare vedendosi faccia a faccia, abbiamo provato a riproporli via radio, e quindi avevamo cominciato sulla scia delle assemblee radiofoniche che hanno fatto tutte le radio in questo periodo. Abbiamo fatto 2 assemblee radiofoniche di Bologna, in cui siamo riusciti a raccogliere un po' di contributi di varie realtà che raccontavano iniziative, riflessioni, analisi e via dicendo. E poi abbiamo fatto le dirette, sono stata la grande novità, diciamo, la direttona del 25 aprile e del 1 maggio, che sono andate particolarmente bene. Sì, infatti, ma più che altro che come si diceva prima, siamo riusciti a fare un po' di comunità, anche perché andare a scrivere a vari collettivi bolognesi e non solo, abbiamo anche intervistato i portuali genovesi. E quindi per chiedere i loro contributi comunque vuol dire continuare a tessere rapporti e, insomma, stare un po' dietro anche a quello che fanno gli altri e non quelli più vicini, quindi quello. E poi altre cose che abbiamo, non so se anticipare, se è una cosa, una domanda che farete dopo o meno, ma lo dico lo stesso. nel palinsesto, una cosa che vogliamo fare il 31 maggio è il festival che si faceva a XM, Olé, oltre l'editoria, che è un festival di autoproduzioni, editoria indipendente, workshop, mostre così. E dopo lo sgombero avevamo intenzione comunque di farlo lo stesso all'aperto, inventandoci delle modalità per farlo, anche se non avevamo più una casa dove farlo. E poi si è bloccato tutto, come sappiamo, e abbiamo pensato di farlo in radio e non in diretta a Facebook. Io, scusate, ma ce l'ho un po' troppo. E quindi abbiamo pensato che poteva essere una cosa interessante fare un festival di grafica e di arte visivo, soprattutto di farlo con la radio, che è proprio il mezzo che magari non ti aspetti. Ma io, che tempo fa la già che ci sono a proposito del palinsesto a Bologna? Che tempo fa? È una domanda per l'astronometrico. Allora lo rifaremo, ma lo ritrasmetteremo in realtà, che è uno dei miei momenti preferiti, quello del meteo. Lo è stato soprattutto nel momento in cui non ci mettevo nemmeno il becco fuori, quindi è stato importantissimo. Ascoltavo dopo il radiogiornale tutti i giorni il meteo bolognese. È vero, era bellissimo, è bellissimo. È tuttora bellissimo. Spostiamo magari adesso verso gli annunciati camalli genovesi? Sì, è vero, perché magari anche lì hanno da raccontarci appunto se il palinsesto è cambiato, se ci sono stati dei contenuti speciali e se qualche evento appunto che non poteva tenersi fisicamente ha potuto trovare una forma diversa in radio. Ovviamente, cioè, penso che sia chiaro abbastanza a tutti e a tutte che non stiamo dicendo che la radio è sostitutiva di quello che è un evento fisico con tutta la bellezza di tutti i cinque sensi che abbiamo, ma insomma comunque possiamo riuscire a fare qualcos'altro di diverso sicuramente, ma che almeno ci consola un po', ecco. Non so, Filo, voi lì a Genova com'è andata? Allora, noi il palinsesto, come immagino un po' tutte le radio, ha ricevuto un boost, nel senso che siamo andati molto più forte, ci abbiamo messo molto più impegno e si è vista tanta differenza. Diciamo che è nata qualche nuova trasmissione, non troppe, sempre a proposito di Apocalisse mi viene in mente una trasmissione che è venuta fuori che si chiama Straight Out the Cantina ed è sostanzialmente ambientata in un'apocalisse zombie dove non si può uscire. E ti devi trovare i dischi vinili in cantina, quindi tipo era solo riproduzione di vinili e chiacchiere a proposito. Quindi scusate, mi sono ricollegato al tema prima, ma mi sembrava inerente. E quindi insomma un po' di aggiunte e un po' di boost alle trasmissioni che già c'erano. Il grosso che abbiamo fatto, diciamo le trasmissioni più seguite erano appunto le assemblee radiofoniche. Le assemblee radiofoniche andavano in onda tutte le domeniche dalle 18 alle 20. Questa domenica non c'è stata perché è stata sabato mattina, spostata diciamo in contemporanea con il sistema di distribuzione spesa sospesa. Mi si seguono alcuni compagni per fare sostanzialmente delle dirette, delle interviste in diretta, però sicuramente è stata la trasmissione più seguita e più partecipata anche proprio in termini di contributi, come poi d'altronde deve essere un'assemblea. E come eventi, diciamo che eventi dello spazio non ce ne sono stati, diciamo, di sostituzioni di eventi nello spazio perché noi abbiamo abbastanza fermato il calendario e non è che avessimo dei particolari eventi ricorsivi in questo periodo dell'anno, per cui insomma niente di non rimandabile, ma invece ci sono stati 2 giorni importanti, lo sono stati per tutti, per tutte le radio, che sono il 25 aprile e il 1 maggio, in cui si sono fatte delle trasmissioni all day ad hoc, e quindi insomma abbiamo vissuto quei momenti attraverso la radio, ma un po' l'abbiamo già detto prima e un po' anche le altre radio avranno da parlare di questo. Ma io volevo entrare a gamba tesa così e fare una domanda random a chiunque voglia rispondere. Ma secondo voi, cioè, mi domandavo, i nostri contenuti delle varie radio hanno avuto, una predominanza di contenuti di tipo informativo oppure no? Cioè, in questo momento di pandemia intendo. Cioè, si è sentito secondo voi più il bisogno in chi faceva radio o in chi l'ascoltava di avere un aggiornamento sulla realtà, sull'informazione, eccetera? O forse si sentiva di più un bisogno di anche di evadere in qualche maniera, di ascoltare anche solo della musica o farsi fare compagnia con qualcosa che non fosse necessariamente la triste realtà angosciante che stavamo vivendo, o se entrambe le cose, insomma. Ma guarda, credo di poterti rispondere io perché, come abbiamo detto, come radio siamo nati proprio in questo periodo e questo periodo è quello che ci ha dato un po' la spinta per iniziare le messe in onda. E, certo, dipende perché ovviamente una volta che cominci a fare comunicazione poi cerchi di trattare tutti quei temi che ti stanno a cuore. E fare informazione, sì, certo non ovviamente i bollettini della protezione civile, cosa che ci siamo volutamente astenuti dal trasmettere, però abbiamo fatto informazioni su tante situazioni concrete che stanno nascendo in questo momento, come per esempio lo sciopero degli affitti. Abbiamo fatto uno spot ad hoc per promuovere questa pratica che sta nascendo un po' in tutta Italia. Abbiamo fatto un po' di ricerca storica e ne è nato uno spottino molto carino che trasmettiamo spesso quando andiamo in onda. Ci sono delle rubriche che sono proprio state fatte ad hoc, come Diari di Quarantena, che segue Giulia, una nostra amica, cercando di farsi raccontare un po' dalle persone quello che sta succedendo, come lo stanno vivendo. E poi sicuramente sì, cioè svarionare un po' su tutto, anche perché è importante anche in qualche modo intrattenere, cercare un po' di far sorridere, ma a volte, soprattutto quando si è in una comunità abbastanza estesa dove praticamente ci conosciamo un po' tutti, anche solo il fatto di riuscire ad ascoltare la voce di qualcuno che non vedi e non senti da un po', già solo quello è entusiasmante per un certo punto di vista. È vero, sono molto d'accordo. E non lo so, voi, qualcun altro che ha qualcosa da dire? Se no, proseguiamo, cioè rimaniamo su Roma e ci facciamo raccontare il loro di palinsesto. Beh, l'informazione è sempre una roba importantissima da comunicare in radio, insomma, e noi abbiamo sperimentato parecchio in questi ultimi mesi, come dicevo prima, per il giornale radio, e non è assolutamente facile. Ovviamente non abbiamo voluto ritrasmettere neanche noi i bollettini della protezione civile, perché l'altro problema di questo periodo è stato il bombardamento costante di informazioni sul coronavirus, in cui ne usciva una ogni 5 minuti. E quindi all'inizio il giornale radio era pensato come un giornale radio che non parlasse assolutamente di coronavirus. Poi purtroppo, vuoi o non vuoi, qualsiasi notizia era collegata a quel tema e quindi lì siamo andati a parare, ma senza star troppo sui dati. E che dire, son tante riflessioni da fare adesso anche col giornale radio, perché mettere assieme le informazioni del locale di Bologna, di Genova, a cui speriamo di poterne aggiungere altri presto, e le notizie dalla penisola e dalle isole o quelle internazionali, diventa una mole di informazione gigantesca da gestire e chiaramente se data la precedenza alle realtà dal basso, ai movimenti sociali, alle realtà autogestite. Però anche lì è abbastanza un delirio riuscire a raccogliere informazioni su tutto il panorama che abbiamo di fronte, perché c'è una fortissima divisione fra numerosi siti, numerosi blog, alcune che torniamo sempre a parare su questo punto, però tante realtà che parlano principalmente tramite Facebook, e diventa così difficile riuscire a raccogliere e a mettere insieme tutto. Per cui anche per la raccolta di informazioni stavamo cercando un po' di capire come costruire una regia collettiva e come riuscire a avere contributi che arrivino da fuori. E su questo ci siamo riusciti, nel senso che in diverse occasioni ci sono arrivati degli audio con la richiesta di ritrasmetterli e di parlare, e sono partite delle dirette speciali, anche solo di una mezz'oretta, per aggiornare, per esempio, una giornata di 2 mesi fa, era una mobilitazione anticarceraria che si è seguita molto a Bologna come nel resto del mondo in questo periodo, e ci è arrivato un audio di aggiornamento, mandatelo per favore così aggiorniamo un po' sulla situazione, e partirà una diretta speciale. O anche appunto giovedì, dopo gli arresti che ci sono stati a Bologna, sono arrivati subito dei contributi audio da mandare, e insomma cioè, chiaramente non fa piacere che arrestino dei compagni, figuriamoci, però fa piacere che in un momento difficile come quello altri compagni pensino subito, ok, mandiamo questo in modo che lo possano ritrasmettere. Quindi, per rispondere un po' alla domanda che facevi prima, Pinke, tutte e due cose, cioè, sicuramente c'era voglia di svago, e molte delle proposte che ci sono arrivate per il palinsesto di programmi da inserire sono stati compagni e compagne che magari si prendevano per un argomento nello specifico e volevano far volare un po' l'immaginazione, la musica, ma anche la necessità e il bisogno di continuare a comunicare e a informarsi. Direi benissimo, perfetto, mi avete fugato un sacco di dubbi e sono d'accordissimo con le cose che avete detto. E Daniele, invece, ma sul palinsesto prima già in realtà ci hai già un po' risposto e ci hai già un po' spiegato appunto, ma invece per quanto riguarda le questioni musicali, cioè che tipo di spazio avete avuto anche, avete dato nel palinsesto alle varie anime musicali che popolano il Forte? E magari, non so, ve lo chiedo senza assolutamente saperlo, ci sono state delle occasioni come quelle che citavamo prima nelle altre radio di dare voce a degli eventi, chiamiamoli così anche se è una brutta parola, però insomma, fisici che non sono potuti avvenire, che quindi invece hanno trovato uno spazio in radio. Ma sì, in realtà dobbiamo un attimo premettere che il nostro palinsesto viene definito praticamente sul momento, a volte quasi a braccio praticamente, perché non facendo dirette raccogliamo semplicemente tutti quanti i podcast che ognuno di noi ha realizzato e li mettiamo tutti quanti su un cloud, questo per darvi uno spiegone tecnico di come facciamo, anche perché non tanti di noi stanno fuori Roma, eccetera. E quindi praticamente abbiamo questo cloud in cui raccogliamo tutti quanti i contributi che facciamo e puntualmente molti arrivano in ritardo all'ultimo minuto. E la cosa che ci aiuta molto è il fatto di avere un software per la messa in onda che è abbastanza flessibile e ci permette di aggiungere cose anche all'ultimo momento e stravolgere completamente la scaletta. E quindi diciamo che l'unica cosa che abbiamo cercato di fare è fare una differenza tra i programmi che contengono un parlato, e quindi magari più informativi, più raccontati, e programmi che contenessero solamente della musica più cruda. Cerchiamo di alternarli in modo da variare un po' più possibile e spezzettare un po' le cose. E anche perché cerchiamo di dare spazio a tutti quanti, insomma, tutti quelli che hanno realizzato qualcosa, è importante che venga messa in onda. E quindi, insomma, ci arrangiamo un po' così con il nostro palinsesto. Ancora non abbiamo una programmazione predefinita e scandagliata durante la settimana, ma usciamo praticamente ogni tanto, scegliamo una giornata e cercando di fissarci una deadline entro la quale tutti quanti quelli che stanno lavorando a qualcosa lo caricano sul cloud e poi ci vediamo magari il giorno prima della messa in onda per capire le tempistiche, gli orari, eccetera. Quindi sì, è quasi completamente improvvisata la nostra organizzazione. Però la cosa insomma notevole è il fatto che praticamente si riesce a fare questa cosa senza neanche incontrarsi, stando a distanza e non avendo bisogno di avere una regia predefinita. Anche perché per raccogliere per esempio interviste e contributi ci arrangiamo un po' con i cellulari, con il registratore del cellulare, facciamo un'intervista, ora lo registriamo, poi cerchiamo di riversarlo sul computer. E, insomma, tecnicamente non siamo proprio i migliori professionisti, però alla fine il risultato è insomma accettabile, cioè più che si ascolta in modo abbastanza gradevole. E gli eventi, sì, abbiamo dato spazio a degli eventi perché due delle giornate che abbiamo fatto per la messa in onda, la terza ancora deve avvenire, e sono state proprio giornate ad hoc, diciamo, che sono state il 25 aprile e il 1 maggio. E il 1 maggio era la festa del non lavoro, ma anche la ricorrenza del compleanno del Forte. E, insomma, coincide con la festa che facciamo al Forte tutti gli anni. E non ci sembrava davvero il caso di non fare niente o comunque di restare in silenzio. E quindi è stato anche molto travolgente la cosa perché da parte di tutti quanti ci è arrivato materiale, ci hanno diversi DJ del Forte, amici, musicisti, eccetera, ci hanno mandato materiale preparato apposta e abbiamo creato dei contributi proprio per quella giornata. C'è una rubrica che si chiama Amazzoni Metropolitane e altre rubriche, insomma, hanno fatto magari una puntata apposta che parlasse di quelle tematiche e di quella giornata. Quindi praticamente abbiamo trasportato l'evento del 1º maggio al Forte sulla radio, lasciando modo di partecipare a tutte quante le persone che magari sarebbero intervenute dal palco. E questo sì, è stato molto divertente e insomma in qualche modo è stata una buona alternativa. Giornata che non si poteva realizzare veramente. Beh, c'erano molti orfani del 1º maggio Forte Prenestino qui a Roma e quindi abbiamo pensato giustamente di fargli compagnia con un po' di informazione sicuramente, ma pure con intrattenimento, semplicemente con della musica per appunto riportare un po' l'atmosfera che insomma veniva a mancare non potendo rincontrarci tutti insieme e abbiamo ricevuto, come dire, un ritorno pure molto bello, a tratti emozionante, insomma, ci hanno mandato dei messaggi, le persone avevamo chiesto di inviarci il 1º maggio desiderato nel 2020, al tempo della pandemia, e quindi sono arrivati un bel po' di interventi che appunto abbiamo infilato nel palinsesto al volo, mano a mano che arrivavano. Personalmente mi sono emozionato 2 o 3 volte nel corso della giornata. E il nostro palinsesto, come diceva Daniele, è tutto un podcast per il momento. Sicuramente la sfida delle prossime settimane sarà passare pure alla possibilità di fare una diretta. E mi pare di aver capito che probabilmente a breve noi avremo in realtà la prima diretta di Radio Forte qui su Radio Wombat. O mi sbaglio? Lo chiedo alla curva che sta al Forte e che ci voleva far sentire qualcosa. Ce l'avremo ora, nel senso, ora subito. Beh, è una diretta questa, Come sì, no? comunque, quando volete. Beh, siamo a Roma, direi a Roma di restare. Era stata annunciata, non abbiamo nemmeno capito bene cos'è, ma siamo assolutamente ansiosi. Almeno io. Ah, non lo so neanch'io, non lo so neanch'io. Sì, continuate a stupirci. Vabbè, quantomeno mi presento perché vabbè, faccio parte insomma di quello che esprime il Forte, se non altro in senso musicale. Però beh, cioè, poi la gente non ha sottolineato che io come dote ho cioè, il fatto di drammatizzare. Quindi cioè, in questo momento vado come il pane, quindi cioè, stasera ho anche altri impegni da fazio, cose. Mo faccio una cosetta al volo che comunque è andata anche durante il 1º maggio e normalmente drammatizzo il punk perché comunque quella è la mia genesi e quindi poi l'ho drammatizzato nella vita crescendo. Mo' mi sono gettato in altre cose. Questi sono artisti che si sono esibiti al Forte durante il Festival Crack più volte. Sono i Popix. Colpo di cassa su Popix. Sì, lo siamo anche noi. Che bello. Come si fa a dire in radio? È un casino, cioè è difficile. È vero, è difficile. Sì, sul microfono, tipo. No, non lo Ma so, quindi non lo so. il Forte ha iniziato le dirette, a posto. Le iniziate in grandissimo stile, fra l'altro, dovete portarcela con continuità questa voce, devo dire. Vai, vai, dici. Stasera è un po' impegnato, come ha sottolineato, Sì, dovrebbe sì. andare in Rai. Poi vediamo nella prossima settimana se magari può fare anche un salto dalle parti vostre. Quando trova un buco nell'agenda, noi siamo a disposizione. Comunque, fatecelo sapere che lo prenotiamo. Ripaghiamo in birra e patatine. Andrete falliti allora. Allora, che la mettiamo un'altra canzone oppure andiamo avanti, lancia in resta? Pink, che ne dici? Io metterei un altro po' di musica, visto che ormai ci siamo lanciati così sulla rilassatezza musicale, almeno ci continuiamo a riposare un attimo e poi continuiamo con le ultime chiacchiere. Abbiamo ancora un po' di cose da dire prima della chiusura della trasmissione, che dici? Beh, certo, le vogliamo assolutamente chiedere, non possono scappare per cenare, rimarranno con noi tutti i nostri ospiti. Mettiamo una canzone e domandiamogli ancora un sacco di cose, sì. Sì, tra l'altro è un pezzone, è un pezzonissimo. Coming to the air, oh, got more coming right now. There's more coming. We're gonna get a little sort of a session going here. A bit of a session. A session that will feature the rhythm section. E rieccoci, e mentre a proposito parlavamo di strumenti tecnici di mix, sto facendo casino oggi il mio mix XX, oppure sono io che lo sto facendo. Però ecco, comunque più o meno l'ho sistemata la situazione. Intanto, ciao Briccobaldo! Ciao! Wow, ciao, bravissimo, molto reattivo! Eccolo con noi Briccobaldo da Firenze, un'altra voce da Radio Wombat. Come stai, Bricco? Bene, bene, stavo aspettando che mi introducessi qualcuno. Il tappeto volevi, eh? Eccolo qua, è rosso. Cioè, hai capito come fai l'aristocratico? Allora, in verità sono arrivato molto in ritardo e quindi mi sono aperto quasi tutto e mi vergognavo un po'. Avrei occasione di riascoltare questa puntata per intero in podcast da stasera, la caricheremo sul sito della radio, come no? Sì, chissà chi hai detto, tipo. Vabbè, non ti voglio... Sì, sì, la fine forse, no? Vabbè, non ti vogliamo più. No, no, dai, volete, mi sono molto contento di ascoltarlo e purtroppo magari ho anche un sacco di domande, però chissà se l'avete già snocciolate, quindi non vorrei entrare così a gamba tesa nella trasmissione. Forse gli possiamo dare occasione di una piccola voce oppure no? Vabbè, dai, te lo concediamo, se il tuo microfono rimane così va bene. Fai una domanda, falla ai nostri qui ospiti. Allora, mi sento veramente... Sì, se mi sentite proseguo. E, no, intanto sono nate, abbiamo visto nascere Radio Forte, abbiamo visto Radio Spore, risorta più viva che mai. E, volevo chiedere se questa esigenza di mandare delle parole nell'etere o comunque attraverso la radio ha trovato poi anche un riscontro nell'ascolto, e se cioè è stata più un'esigenza di diffusione oppure di ascolto, e poi magari anche un po' sulla questione tecnica, sulla trasmissione proprio nell'etere, come sta andando per le altre radio, visto che insomma per noi è stata un po' difficoltosa in questo periodo, e se comunque ecco rimane una priorità, ecco, una cosa da sviluppare, da continuare a sviluppare, da continuare a diffondere, aprire nuove, tirare su nuove antenne, e, insomma l'etere, ecco. Come facciamo? La facciamo rispondere a chi la chiediamo? Perché un po' l'avevamo già chiesto Briccobaldo, cioè in realtà se te lo dobbiamo dire. Però possiamo far rincarare la dose. Oppure mi posso ascoltare il podcast, come si diceva prima. Sì, io intanto sono di nuovo distratto, stavo scrivendo un po' da Roma che ci hanno... Aspetta, vediamo se viene raccolto. Dobbiamo capire, arriva qualche messaggio misterioso, ma che forse così misterioso invece non è, troverà anche un esito. Vediamo fra pochi secondi. Intanto bocciamo la domanda di Briccobaldo, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Sì, ciao Briccobaldo. Ci fa piacere comunque che tu sia con noi, amico. Grazie, anche a me fa piacere essere bidonato adesso. Allora, mentre di là ci organizziamo, io... Sì, sì, va bene, ci stiamo organizzando. Intanto però faccio una domandina, eh? Faccio una domandina io e vediamo... Ritorno anch'io un pochino in realtà su quello che stavamo dicendo prima a proposito degli strumenti tecnici, degli strumenti tecnici, sì. Cioè, se abbiamo inventato, oltre che usato, dei nuovi strumenti tecnici, e anche che cosa, come esperienze soggettive, come singole radio o insomma come rete di radio, ci porteremo dietro da questi giorni nel futuro? Qualcosa sicuramente, almeno per noi, rimarrà, anzi è stato prezioso scoprirlo in questi giorni. E quindi è un po' questa la domanda: che cosa ci porteremo dietro di questi giorni nel futuro delle nostre radio? E se in questo periodo abbiamo appunto inventato e usato dei nuovi strumenti tecnici? In modo assolutamente randomico, io direi di andare a Genova. Così? Così. Eccomi. Allora, nuovi strumenti. Diciamo che abbiamo imparato ad usarne di strumenti già scritti, nel senso che siamo diventati fortissimi di Mumble, che ci è venuto benissimo per organizzarci le varie assemblee, abbiamo messo a punto LibreTime, che è stato già citato, che sostanzialmente gestiva il palinsesto, il calendario e le trasmissioni, le stream e le varie cose, che insomma gira sul server che fa girare la nostra radio, e abbiamo aggiunto ultimamente, sempre diciamo pescando il software grazie all'esistenza magnifica del software libero, abbiamo aggiunto anche un cloud recentemente che utilizziamo sia per la radio sia per il collettivo tutto, diciamo, del Buridda, che ci permette di scambiarci file per le dirette, per fare un pochino di archivio, lavorare sulle grafiche delle cose, insomma. Queste sono un po' le nuove tecnologie, i nuovi raggiunti, insomma, però proprio nuovi, diciamo che non abbiamo fatto del coding, insomma, se questa era la domanda. Invece la seconda parte della domanda mi sono distratto, e quindi ero così concentrato sulla prima che me la son persa. No, ti chiedevo su cosa di questo vi porterete dai nel futuro, nei prossimi tempi, sperando insomma che sia sempre maggiore il grado di riapertura a cui andremo incontro. Allora sì, sicuramente qualche trasmissione in più che si è aggiunta e un sacco di distribuite capacità tecniche, nel senso che c'è stato molto lavoro per produrre le guide, ma dall'altra parte c'è stato anche molto lavoro da parte di chi segue le varie trasmissioni di imparare a come far funzionare. Quindi diciamo che c'è un pochino più di voglia di capire, di comprendere come funziona la parte tecnica. Rimarrà probabilmente la possibilità di fare trasmissioni da casa, cosa che per certi versi è comodo. Noi abbiamo una bella regia, insomma, bella, anzi un paio qua dentro il laboratorio sociale. Una tra l'altro è soprannominata Apollo perché c'ha tipo il mixer montato verticale, un sacco di spippoli, e quindi questo funziona molto bene e lascia un sacco spazio, insomma. È una regia che funziona, però si potrà fare anche, secondo me, in differita da casa. C'è chi sceglierà magari questa modalità e andrà benissimo. E una cosa su cui metto il sottolineo è che in questo periodo qua ci siamo un po' più stretti tra noi, queste radio, insomma, che sono anche ospite di questa puntata, e cerchiamo di fare un po' di lavoro comune, sia dal punto di vista di condivisione di tecnica, ma anche dal punto di vista di condivisione di contenuti. Cioè, io sono molto contento che c'è questa collaborazione per cui restreamiamo il radiogiornale di Radio Spore, che è fortissimo, che seguiamo volentieri, in cui contribuiamo nel pad. Insomma, diciamo che oltre alle singole radio si è creato un po' un terreno comune che è bellissimo da portare avanti, perché è logico che lavorare insieme ti fa raggiungere traguardi più importanti. Questo lo aggiungo. Sì, grazie Filo, perché in effetti questo era un dettaglio non da poco che non avevamo detto, però effettivamente dietro questo coro che avete sentito oggi c'è anche un po' una voglia di coordinarsi anche tra le varie radio, e con alcune radio già ci conoscevamo e già facevamo cose insieme, altre ci stiamo conoscendo ora, e insomma io spero che questa coralità che avete sentito oggi venga anche un po' rispecchiata nei nostri palinsesti sempre più ricchi, e penso che sarà così, insomma. Sì, io lo spero, e sono qua a far da ponte, infatti ben volentieri, ma proverò anche a coinvolgere altri miei coradiolari e cercare di riscambiarci più materiali, informazioni, scambiare trasmissioni, insomma, podcast, e organizzare una piattaforma comune sarebbe d'uopo. Eh sì. Allora Mario, io so che tanto cioè, qui c'è dell'imbarazzo e lo so che va detto, ci hanno fatto una richiesta a cui non possiamo dire di no, perché noi ai nostri fans non riusciamo a dire di no. Mai. Quindi se ci chiedono un pezzo, noi lo dobbiamo mettere, abbiamo questo problema. E quindi, però collatela te, cioè il lancio lo devi fare te. Premo play io, premo play e poi vediamo se mi accollo il lancio. Facciamo così. Vabbè, facciamo così. Poi ci facciamo spiegare da chissà che cosa stiamo per sì, mandare. Sono di persone molto siete più avvedute sicuri? Di noi. Infatti. Ancora l'ultimo dubbio? Parlate ora, tacete per sempre. Facciamolo. Via! You took a left off last lap lane. Nasconderà in un paese infame. Attenti al comune che vuole nasconderà. Col senno di poi non erano forse così del tutto infondati quei dubbi che sono stati sollevati prima di mandarlo. Però mi è piaciuto tanto a me, sì. Allora, io vorrei passare parola a qualcuno che ci spieghi che cosa abbiamo appena ascoltato e che riascolteremo all'infinito probabilmente nelle nostre notti, sì. E questo capolavoro della musica contemporanea era il Galeone della SIM, la scuola italiana con migranti di XM24, e effettivamente è uno dei risultati di questi sviluppi tecnici in 2 mesi di pandemia, perché è stato registrato interamente su Mumble, come avete potuto apprezzare dallo sfalsamento delle voci, però è stato un grandissimo esperimento di musica con mezzi autogestiti a distanza. Ed è stato uno dei tanti contributi che ci sono arrivati per la diretta del 25 aprile, che non avevamo detto, mi sa, però il bello di quella diretta, che è una delle cose che ci porteremo avanti prossimamente, è il fatto che il 90% della scaletta della diretta che abbiamo fatto di 12 ore è stato creato da gente che ha mandato contributi, e sulla base dei contributi arrivati, e quello è stato figo perché è stata una maniera di costruire in maniera autogestita il 25 aprile tutti assieme. Contributi registrati anche meglio, chiaramente, cioè possiamo anche dirlo che insomma, cioè, no, non basta l'autogestione e la proprietà dei mezzi di riproduzione per garantire la buona riuscita. Noi apprezziamo comunque la coralità, almeno questo assolutamente sì. Se vi volete tanto male, c'è anche la risposta della regia di Radio Spore del 25 aprile, che in chiusura ha cantato Oltre il ponte, ma tutto ciò arriverà disponibile su Archivi. No, basta autoreferenzialità. No, approfitto di Archivi perché è uno dei mezzi che già avevamo, però abbiamo iniziato a usarlo meglio, cioè in maniera più diffusa, ed è il sito dove archiviamo tutti i nostri podcast. Mentre sulle domande per gli strumenti tecnici, a parte reinventare tutta la situazione delle regie con Mumble, eccetera, in questo periodo i nostri hackeri, che ringraziamo sempre, sono riusciti a montare un telefono, per cui adesso riusciamo a fare le chiamate in diretta durante la trasmissione, insomma. e nuovi strumenti tecnici. Abbiamo scopiazzato l'utilizzo dei pad da Radio Wombat, è un'idea geniale perché appunto ci stiamo chiedendo come comunicare verso l'esterno e il pad effettivamente è risultato un gran mezzo di comunicazione. E l'altra, dei cloud, con cui abbiamo raccolto i contributi per il 25 aprile e il 1 maggio, quindi dando la possibilità dalla gente di avere una buca per le lettere dove caricare i contributi da mandare poi in diretta. Bene, e io vi volevo anche fare delle domande, già che ci siamo, appunto, forse un po' l'ultima domanda che abbiamo già iniziato a esplorare prima con Filo, però ve la volevo girare anche a voi sul futuro, sulle cose che ci resteranno dopo questa esperienza pandemica, a parte un po' di anticorpi e qualche altra brutta cosa da raccontare, però insomma in termini di radio cosa vi portate a casa quindi da tutto ciò, cosa sperate almeno di portarvi a casa e cosa siete abbastanza sicuri di portarvi a casa? Beh, un po' come si era detto, cioè aveva detto anche Filo, i legami affettivi, umani, sicuramente le reti e anche di appunto, proprio perché come Radio Spore ci siamo ripresi in questo momento di andare avanti a manetta, come direbbe Licos, con la radio e con la comunicazione e continuare a costruire questi ponti tra realtà e virtuale e fisica e appunto poter continuare a ritrasmettere contributi che arrivino da collettivi, non per pigrizia chiaramente nel costruire il palinsesto, ma per riuscire a essere una voce non monovoce, ma aprirsi alle varie realtà. Sapete che il contesto bolognese è sempre complicato, fra cazzi e smazzi, fra gli uni e gli altri, quindi insomma riuscire a intercettare più voci. E invece Forte, voi cosa, voi appunto avendo un'esperienza magari un po' in questo, almeno in questa radio, un'esperienza un po' più recente, vi ha aiutato questa cosa e come la vedete sul futuro? Cosa vi porterete dietro insomma di queste giornate? Ma io credo che noi ci stiamo portando dietro proprio la radio del Forte, in sé per sé proprio. Cioè, è un progetto che insomma ha visto un sacco di entusiasmo, un sacco di partecipazione, speriamo che rimanga così. Sicuramente la voglia di proseguire anche post pandemia c'è, e quindi di sicuro la pandemia ci ha regalato il fatto di fare Radio Forte. Poi chiaramente questo grazie alla collaborazione che è nata tra le varie persone che fino a questo momento l'hanno animata, che speriamo che crescano, e quindi indubbiamente questo, sicuramente la radio in sé per sé. Evviva, evviva. Mario, secondo me siamo in chiusura, te lo dico. Abbiamo ascoltato un sacco di voci, ci siamo fatti raccontare un sacco di cose e forse abbiamo sforato sicuramente le 9 come sempre, e forse è il caso di andare a cena, forse di mandare i nostri ascoltatori a cena, ma sempre con la radio accesa ovviamente, perché se no, cioè, che silenzio mai. Ma prima di liberarli io gli farei questa ultima veloce domanda, cioè se hanno voglia, se no lo facciamo noi, ma sì dai, facciamolo fare a loro, di ricapitolare gli indirizzi, i modi per ascoltare le varie radio che abbiamo ascoltato oggi con le loro vive voci. Sì, quindi cominciamo intanto da Genova, che secondo me in apertura abbiamo detto male l'indirizzo, quindi Filo aiutaci e dacci l'indirizzo giusto. Allora, l'indirizzo è burida.org/radiogramma. Facile, in effetti. Sì, l'ho detto male io, effetti, in apertura, lo ammetto. Sì, va bene, non c'è problema. Comunque è questo, potete seguirci lì e potete trovare le varie trasmissioni, anche altre informazioni, blog della Burida in generale. Ok, e poi Radio Spore invece. Allora, radiospore.oziosi.org, e invece sul Ferdiverso, non riesco mai a pronunciarlo, radiospore@mastodon.bida.im, cioè almeno nell'istanza Bida. Per quanto riguarda Radio Forte, forteprenestino.net, sul sito del Forte c'è anche tutto ciò che riguarda la radio. Perfetto, perfetto. Evviva! E noi vi ricordiamo ovviamente i nostri invece di contatti, che sono wombat.noblogs.org, dal quale ascoltare la diretta o cercarvi i podcast delle vostre trasmissioni, e poi anche la frequenza in onde mediocri, la 1359, nei dintorni di Firenze più o meno, se siete così fortunati e fortunate ad essere raggiunti dal Wombat segnale. Ma tra l'altro abbiamo detto in queste settimane che il Wombat segnale purtroppo era giù, ma in realtà è stato su per almeno un paio di orette, quindi insomma non disperate, perché sta per tornare, ve lo dico, sta per tornare forte e chiaro. E altro contatto, che già che ci siamo, Mario, io gli dico la posta, cioè la casella mail a cui poterci scrivere, posta wombat@insiberia.net, e ovviamente tutti gli altri modi che trovate sull'home page del nostro sito, che vi ho detto prima, il pad con cui potete seguire le dirette, e la messaggeria a cui potete lasciarci un messaggio vocale dalla vostra quarantena, o a questo punto dalla vostra libertà. Vigilata, ancora vigilata, e infatti noi ancora continuiamo con i nostri palinsesti speciali, che di settimana in settimana aggiorniamo, e quindi come sempre da stasera, da domani, sarà disponibile il palinsesto della settimana sempre sul sito wombat.noblogs.org. Non ci resta forse che ringraziare e salutare? Magari mettiamo una canzone dopo i saluti, però, prima di chiudere, l'ultima. Dopo i saluti. Sì, anche perché è bella quella, dopo ci rallegra. Però sì, ringraziamo tutti e tutte di essere stati con noi. Ci ha fatto veramente molto piacere fare questa chiacchierata insieme con queste radio, e speriamo che da questa, questo non è veramente il primo passetto, ma uno dei primi passetti, speriamo che ne vengano tanti altri, e grazie mille ancora. Grazie a voi. Grazie, ha fatto un sacco piacere collegare le radio, sempre importante unire i ponti. Grazie, ciao, grazie, grazie. Ciao. Ciao. Grazie a voi, grazie di più. Sovrapposizioni da Mumble, ciao ciao, grazie a voi, a presto. E allora a presto, il podcast da stasera disponibile. Ultima canzone, Pirate Ray, come si pronuncia, Pink? Pirate Radio, vale, dei Toasters. Ciao ciao. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.